Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 13 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti che ci ascoltate tra la città e il carcere e appunto bentornati a Liberi Dentro ed Uradio. Apriamo questa puntata, Antonella, che sei da Parma, sempre con me alla conduzione di Liberi Dentro, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti. Dicevo, apriamo questa puntata facendo gli auguri a tutte le persone fra la cittadinanza, il carcere di fede musulmana che ci stanno ascoltando in questo momento o che non ci stanno ascoltando ma ci stanno seguendo e che oggi interrompono il digiuno di Ramadan con questa festa, Eid al-Fitr, che è la festa dell'interruzione del digiuno. Scusate se forse ho riportato male il titolo, ecco, l'ho pronunciato male, e costituisce appunto la seconda festività religiosa più importante della fede islamica. Quindi auguri a tutti quanti. E ce ne parlerai tu dopo, Antonella, nella seconda parte. Senz'altro. Allora, oggi apriamo invece con un tema molto sociale che ci riguarda tutti. Droga e carcere, il tunnel degli invisibili, intervista a Sandro Libianchi. Leggo la notizia da lavocedeimedici.it e si tratta di una intervista fatta a Sandro Libianchi, che è il presidente dell'associazione Conosci, che è il coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane, ed è anche dirigente medico del complesso polipenitenziario di Rebibbia. E gli viene fatto un'intervista a questo dottor Sandro Libianchi sulla presenza di persone tossicodipendenti nelle carceri italiane che sono considerate malate a tutti gli effetti e per le quali ci si pone appunto l'interrogativo della motivazione della loro presenza in carcere, chiedendosi se non dovrebbe essere comunque automatica la loro uscita e l'affidamento a strutture terapeutiche. Però prima di rispondere a questo interrogativo su cui si concentra tutta questa intervista bisogna fare una doverosa promessa, che non tutti i consumatori di droga che abbiano commesso un reato entrano direttamente in carcere. Per alcuni di loro scattano infatti le cosiddette misure alternative, come per esempio l'arresto domiciliare, altri vanno in comunità terapeutiche, altri ancora, una parte consistente, entra invece in carcere e le cose lì cambiano molto dal punto di vista strutturale. E Caterina, scusami, ma cosa succede quando una persona tossicodipendente che ovviamente ha commesso reato entra in carcere? In carcere l'individuo è sottoposto chiaramente alla tutela dello Stato e quindi molti dei suoi diritti ordinari in qualche modo devono sottostare a un regime particolare. Il primo passaggio dopo l'ingresso in carcere è legato a una diagnosi precisa, che porta quindi a un programma terapeutico per la persona, fra virgolette, malata, considerata malata perché tossicodipendente, e al quale segue proprio un iter molto molto lungo. E poi bisogna tenere presente che questo iter prevede anche l'approvazione da parte della ASL, del servizio assistenziale, che deve riconoscere l'idoneità del programma terapeutico e sostenerlo economicamente. Questo percorso richiede tempo e include anche tanti passaggi e questo purtroppo si traduce anche in tempo di detenzione per la persona. Quindi il malato, come dicevo appunto, così viene definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla medicina attuale, deve dunque aspettare permanendo in una situazione comunque anomala di detenzione. Ho capito. Senti, ma in realtà di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di numeri alti per l'Italia, perché nel panorama italiano gli ingressi in carcere come tossicodipendenti dal 2014 al 2019 ha subito un'impennata molto considerevole, passando dal 27,5% al 36,5%. E sono cifre che spaventano rispetto a quelle invece europee che si attestano intorno al 20%, ma questo avviene soprattutto a motivo anche della legislazione italiana, che è molto severa. Pensate che già ancora dagli anni 90, nel 1990, abbiamo il testo unico, 309 del 1990, e questo provvedimento stabilisce regole molto stringenti riguardo alla produzione, al commercio e all'uso delle sostanze stupefacenti, vietando in ogni circostanza l'eroina, i derivati dalla cannabis, hashish e marijuana, la cocaina, gli allucinogeni, l'estasi e alcuni prodotti analoghi. Quindi questo chiaramente fa sì che le persone che commettono tutti questi tipi di reato subiscano la carcerazione, quindi il trend aumenta chiaramente. Senti Caterina, oltre al fatto che abbiamo le rubriche a tema, no? Che hanno trattato l'argomento con l'equipe sanitaria, c'è stato il programma proprio sull'unità di strada, che è questo CERT che gira a Bologna e che ha dei punti in cui si ferma e appunto, diciamo, somministra il trattamento. In carcere si riesce a realizzare qualche forma, diciamo, concreta e efficace di trattamento? Sì, questo succede e anche qualche forma di innovazione, come dire, nel sistema sanitario. Questo è un aspetto interessante. Nei decenni c'è stata un'enorme variazione di trattamento ed è sempre stata secondaria a variazioni normative. Infatti, se negli anni 70-80 il metadone era bandito, per dire, nelle carceri, nessuno lo autorizzava, neanche l'impiego, negli anni successivi invece è stato autorizzato e gradualmente anche ammesso. E inoltre le carceri, e questo è molto importante, si sono dotate negli ultimi anni di servizi di assistenza psicologica e trattamento sociale, finalizzando la loro azione soprattutto verso un progetto verso l'esterno. È chiaro, sono figure, sono molto esigue all'interno del carcere, purtroppo ancora, ma sono figure professionali importantissime che consentono alle persone affette da questa, viene considerata malattia, tossicodipendenza, comunque di avere una riuscita nel loro iter. Senti, ti faccio una domanda che forse è un po' provocatoria. Quali potrebbero essere le strade per ridurre, se non addirittura per eliminare il problema? Ma guarda, io ti rispondo con le parole appunto del dottor Libianchi che dice che purtroppo la strada è quasi soltanto politica, perché abbiamo delle leggi, alcune delle quali buone, dice, ma non applicate se non sporadicamente. Ad esempio, la legge 45 del 99 prevedeva tante risorse e servizi per la tossicodipendenza, ma è sempre stata adattata in maniera difforme da una regione all'altra e addirittura in modi diversi nella stessa regione. Quindi lui dice anche che però c'è una nota positiva negli ultimi anni perché la neoministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, che si è rivolta così ai suoi colleghi, ha detto riprendiamo il tema delle droghe, cominciamo noi a dare il buon esempio facendo test antidroghe. Quindi speriamo che davvero ci sia una riforma anche in questo senso. Si parla di riforma delle carceri, ma anche in riforme in settori particolari, come appunto anche questo. E allora lancio un brano prima di passare alla seconda parte, Jimi Hendrix, Little Wing, piccola ala. Bentornati sempre sulle note di Jimi Hendrix. Siamo con te, Antonella. Oggi parliamo, come accennavo all'inizio, della festa della fine del digiuno, che per le persone musulmane è un grande evento oggi. Puoi ben dirlo, Caterina, perché oggi è Eid al-Fitr, la festa dell'interruzione del digiuno, che come tu hai accennato prima è la seconda festività religiosa più importante dell'Islam, che viene celebrata alla fine del mese lunare di digiuno, che cade proprio oggi, che è il 13 maggio. E si celebra ovviamente per ringraziare Allah con la preghiera comunitaria all'aperto in genere. Antonella, il Ramadan è celebrato in tutto il mondo, sono tantissimi fedeli musulmani, ma oggi dove ci porti? Dove ne parliamo in particolare? Caterina, oggi io ti voglio portare in un posto dove ho lasciato un pezzo di cuore, che è Napoli. E quindi restiamo in Italia fondamentalmente. Dove questo festeggiamento, Eid al-Fitr, sarà appunto celebrato in modo più contenuto. Voglio citare un'islamologa che si chiama Rosanna Mariam Sirignano, che racconta che a Napoli il giorno della festa della rottura del digiuno regala il meglio di sé, perché Napoli diventa la città dell'accoglienza, dell'amore, della bellezza. Piazza Garibaldi si riempie di persone di ogni colore ed è il momento in cui tutti condividono tutto ed è un momento anche molto solenne quando cala il silenzio prima di iniziare la preghiera. Ed è bello perché ci sono tutti, anche quelli che non sono di fede musulmana. E mi piace anche ricordare una cosa che ha detto Rosanna Mariam, che lei di solito con le amiche di Ramadan festeggia la fine del Ramadan alla pasticceria Lauri, che è famosa perché ha creato i dolci tipici napoletani in versione halal. E quindi diciamo che questa diventa una giornata Islam napoletana, perché continua con il caffè, magari con la pizza, il babà, chissà, la sfogliatella. Bello, tutto questo è molto bello anche se siamo in situazioni, appunto, una situazione sanitaria ancora difficile. La ripartenza è iniziata dal 26 di aprile, ma ancora immagino ci siano delle limitazioni. Eh sì, infatti, riferendoci sempre a Rosanna Mariam, questa per il secondo anno di seguito, diciamo, l'occasione sociale di condivisione, in occasione della fine del Ramadan non sarà celebrata come hanno fatto fino a 2 anni fa. E dovranno tutti restare nelle proprie case e come sostiene la stessa, Rosanna Mariam, potranno cogliere l'occasione unica per guardarsi dentro e prendersi maggiore cura della dimensione spirituale, che è una cosa molto importante e quindi insomma è un'occasione anche questa, diciamo, di sfruttare questo momento per fare qualcosa per sé ma anche per gli altri. E infatti diciamo che un pensiero speciale va anche a chi è solo e che deve trovare la forza necessaria per attraversare insomma questo periodo, uscire dal Ramadan e non condividere con le persone, gli amici, eccetera. Però voglio raccontarvi anche di un'iniziativa molto bella a Parma, di un'associazione che si chiama Donne di qua e di là, che ha portato dei pacchi con cibi specifici di questo periodo ai detenuti. E tra i cibi che poi tra l'altro abbiamo già citato in un'altra trasmissione c'è il dattero, con il quale si interrompe il digiuno. E faccio questa domanda a te, ma spero che chi ci ascolta possa scrivere a Eduradio, chiedendoti, certo, con questa festa si interrompe il digiuno, è un momento di festa, certamente, un momento introspettivo, ma anche spirituale, immagino. Sì, infatti è un momento importante, soprattutto in questo contesto pandemico. E la stessa Rosanna Marian dice, non puntiamo sulla quantità delle cose, cominciamo a pensare alla qualità della nostra vita, di quello che facciamo. Siamo in una situazione molto complessa e dobbiamo imparare un po' a rallentare e un po' a dedicare tempo a quello che è importante, quello che è essenziale. E questa è un'occasione per farlo. E che brano ci dedichi? Allora, io sono rimasta a Napoli e sono rimasta con, diciamo, la musica che ascoltavo molti, molti anni fa. Sono gli Alma Megretta, è un album pubblicato nel 1995. Gli Alma Megretta sono un gruppo musicale napoletano, la cui musica è un po' una miscela di contaminazioni provenienti da vari mondi: trip hop, reggae, dub, rap. E canzoni napoletane, c'è cioè molta della tradizione napoletana. E infatti la canzone si chiama Sana Core. se vuoi a me passa, io qui già e saprei. Bella figliola come vi chiamate, bella figliola come vi chiamate. Vuoi mi chiama Sanagore, vuoi mi chiama Sanagore, vuoi mi chiama Sanagore. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, come ogni giovedì siamo con Marcello Mastè. Buongiorno Marcello, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Oggi Marcello parliamo dell'Ascensione, questa festa che giunge 40 giorni dopo la Pasqua ed è descritta poi nei Vangeli di Marco, Luca e negli Atti degli Apostoli, quindi non in tutti e quattro gli evangelisti. E io ti chiedo la prima cosa, stiamo leggendo per l'appunto il capitolo di Marco 16, 15, 20 versetti, e allora ti chiedo subito cosa significa parlare di Gesù che ascende, quindi sale verso il cielo, e quali significati quindi ha l'espressione fu elevato in cielo. Può avere diversi significati, come al solito. Un primo significato è quello che Gesù recupera la sua condizione originaria gloriosa, cioè si era descritta l'incarnazione di Gesù, la nascita di Gesù, come un momento nel quale Gesù aveva abbandonato la casa del Padre, aveva tanto amato il mondo da lasciare la casa del Padre per umiliarsi, per assumere nell'umiltà la nostra condizione umana, facendosi addirittura assumendo la condizione di servo, di schiavo. Invece l'ascensione viene descritta come il momento in cui Gesù, dopo aver dato la sua vita, dopo aver consegnato se stesso, recupera la sua condizione gloriosa, la sua dimora presso Dio. Però dobbiamo tener conto che il cielo ha un significato particolare nella mentalità biblica. Cioè il cielo innanzitutto è ciò che avvolge la terra, non ciò che sta sopra la terra, non è una condizione di distanza dalla terra, ma è il luogo che avvolge completamente sia la terra, sia la nostra condizione umana, sia la nostra persona. Cioè noi siamo immersi in Dio, a tal punto che e nel Vangelo di Giovanni specialmente, che non parla dell'ascensione, si dice che il Padre verrà e prenderà dimora presso coloro che lo amano. Ecco, Dio non risiede nei cieli nel senso di un luogo distante dalla terra, ma risiede in noi. Quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, invochiamo un Dio che non è lontano, invoco un Dio che è talmente vicino a me da essere intimo a me più di me stesso, dice Sant'Agostino. Quindi quando si dice che Gesù ascese al cielo, si dice da una parte che recupera la sua condizione gloriosa, ha vinto, dall'altra si dice però che Gesù non ci abbandona, ma sale nei cieli, cioè entra nel più profondo di noi stessi. Non è un allontanarsi da noi, ma un farsi intimo a noi ancora di più, perché lì dimora il Padre, e Gesù che sale e recupera la sua presenza vicino al Padre indica proprio questo figlio di Dio che resta uno di noi e anzi si immedesima ancora di più con la mia condizione. Marcello, gettando ancora uno sguardo su questo Vangelo, infatti l'evento dell'ascensione arriva negli ultimi tre versetti, mentre i primi cinque avviene invece quella che è l'invio missionario dei discepoli da parte di Gesù. E allora ti chiedo perché questa anteposizione che fa l'Evangelista Marco? Perché la missione di Gesù continua in noi, lui si identifica con noi e noi ci identifichiamo con lui. Quindi quando Gesù manda noi ad essere annunciatori del Vangelo, vuole indicare che continuiamo la sua missione, non siamo qualche cosa diverso da lui, ma siamo la sua presenza in mezzo a noi. E poi ha connotazioni diverse negli evangelisti, perché Luca, negli Atti degli Apostoli, è quello che fa partire questa missione da Gerusalemme e la estende alla Giudea e poi alla Samaria, come indicare che la missione degli apostoli, annunciare il Vangelo, è convertire un'antica religiosità che aveva sede in Gerusalemme, che aveva la sua capitale in Gerusalemme e che aveva la sua terra di osservanza ortodossa nella Giudea, per dire no, bisogna rompere questi schemi, uscire dagli schemi chiusi di una religione di osservanza e raggiungere anche la Samaria, cioè questi territori più di confine, più eterodossi, meno osservanti, perché il Vangelo è destinato a tutti. Matteo poi parla di evangelizzare le nazioni, cioè tutti i popoli della terra. Non è chiuso il Vangelo, non è destinato a un solo popolo, non è limitato a un'etnia, ma è un annuncio che vale per tutti, che è destinato a tutti. Marco, e questo mi piace molto, addirittura parla di portare il Vangelo ad ogni creatura. Non dice ad ogni nazione, dice ad ogni creatura, perché il Vangelo non è destinato soltanto agli uomini. La salvezza, la vittoria di Gesù sul male non riguarda soltanto la nostra esperienza personale di umani, ma riguarda l'intero creato. Tutta la creazione geme e soffre, dice Paolo, nelle doglie di un parto, perché attende di essere redenta lei pure. Ecco, la salvezza che Gesù ci ha portato, questa vittoria che di Gesù che viene proclamata oggi nella festa dell'Ascensione, riguarda il mondo intero, abbraccia il mondo intero. Il cielo avvolge tutta la terra e non soltanto noi uomini. Marcello, una canzone. Guarda, pensando all'Ascensione mi è venuto subito in mente Al mondo di Mia Martini, proprio perché l'annuncio di questo andare insieme e scoprendo insieme a Lui quello che c'è di Lui in noi e quello che c'è di noi in Lui. Rieccoci sempre con Marcello Mattè sulle note di Mia Martini Al mondo. Stiamo parlando del significato di questa festa che ricorrerà domenica, la festa dell'Ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, e anche il preludio prima della Pentecoste, quindi del dono dello Spirito Santo. E Marcello, in questo Vangelo Gesù parla anche di segni che accompagneranno coloro che credono. Che segni sono e perché? Sono segni prodigiosi. L'evangelista Marco ci aveva un po' abituati durante la lettura del suo Vangelo a questo Gesù che compie segni prodigiosi, un Gesù miracoloso. E quindi vuol farci vedere che Gesù non smette di essere in mezzo a noi come colui che compie opere grandi, ma le dà a noi da compiere queste opere grandi, le affida a noi. Quindi ci rende capaci di compiere le opere che lui ha compiuto, anche quelle prodigiose. Ma al di là di questo tono molto caro all'evangelista Marco, che sottolinea appunto lo straordinario dell'azione di Gesù e lo straordinario dell'azione dei suoi discepoli, però mi piace pensare che questi segni sono accomunati da una valenza comune. Marco parla di prendere in mano i serpenti, di berre il veleno e di imporre le mani per guarire i malati. Sono tutti segni che hanno a che fare in un confronto con il male. Prendere in mano il serpente come il simbolo, no, del male che serpeggia fra noi, che insidia le nostre esistenze. Berre il veleno, e questa è un'immagine che a me piace molto. Nella nostra azione di cristiani non siamo chiamati a, come dire, stritolare il male o a opporsi al male con la forza, ma invece dobbiamo berlo il male, dobbiamo assumerlo, dobbiamo essere... Non opporci al maligno, non opporci al male, ma addirittura farlo nostro, combatterlo dentro di noi, berlo come si beve un veleno, però se sapendo che l'assumere questa esperienza, anche confrontarci con l'esperienza del male, non in termini di forza, ma in termini di mitezza, questo ci porterà a far sì che il male non abbia vittoria su di noi, ma che noi possiamo vincere il male. E anche imporre le mani per guarire significa usare le mani non per far violenza, non per schiacciare gli altri, come spesso invece noi facciamo, ma che le nostre azioni simboleggiate dalle mani siano tutte orientate a guarire, a risanare, a liberare dal male. È l'invocazione conclusiva del Padre nostro ed è l'invocazione che dà senso alla nostra azione di discepoli di Gesù. Grazie Marcello. E chiudiamo ancora la nostra riflessione sul Vangelo con un brano musicale. Vorrei proporvi di Simon Garfunkel Bridge Over Troubled Water, perché è la promessa di un'amicizia che si stenderà come un ponte sopra acque turbolenti e che è la promessa che Gesù ci fa di essere sempre con noi. A Grazie Marcello, l'ascoltiamo con te. A presto. Ciao. presto, arrivederci. Di nuovo, bentornati. Ci salutiamo dopo aver ascoltato il cappellano del carcere Marcello Mattei, al carcere della Dozza di Bologna. Vi ricordo la rubrica a seguire, se ci state seguendo su Lepida TV, alle 13.30 con Cantieri Meticci, quindi il teatro, oppure alle 17, sempre su Teletricolore, oppure questa mattina, sempre alle 6.30 sulla radio. E noi ci rivediamo domani, sempre ai soliti orari, su Lepida TV, su Teletricolore, su Radio Città Fujiko, sempre con il nostro buongiorno di Liberi Dentro. Vi ricordo di iscriverci, quindi redazione liberidentro@gmail.com, e ringrazio tantissimo Antonella Cortese qui in studio con me e Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate. Grazie a tutti voi ascoltatori che ci sostenete, ci scrivete, ci ascoltate e ci rivediamo sempre qui, sempre domani su Liberi Dentro. Buona giornata. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.